Dammi Anto, e dove sei? Capo di Rosmetro. Bene, mi senti, sì. Radio 5, a mamma. Troppo passa. E io come ti arrivo io? Fai passata. Forte, forte. Mi sono usato le palatinette qua. Yeah. dicendo, ma questa non è la propagazione, si aperta, è bassa bassa. Sei fortissimo. Ecco un attimo che ho un cliente. No, no. Falso allarme. Siamo qua. Vediamo di che esca la porca. Mamma mia. mia, almeno che l'han parte. Casino, è un casino. Mi era mai bene, se ci sfogliatore era mai bene. Così c'è sempre le cose informativo. Ancora le prese con il cespugliatore, sì, Anto? No, il cespugliatore mi ha posto, ma stavo guardando così. Se vogliamo prendere uno più grosso, ma non adesso, no. Ma la campagna ti stai dando? No, se mi esce un tramaiuccio lo posso. E il mio già vecchio, c'ha quasi 8 anni già. Sì, vabbè, e quante volte l'hai usato? Già l'ho usato. Cara, cara. Lavoro. Ciao, oggi con Daniele. Bene, merita, bene, merita. Salutalo. Sì, io. Quando è che vi ho visto? Ieri mattina, poi se vi ho visto. Potrebbe essere. Però mi ricordo dove. Comunque vi ho visto in questi giorni. Là. Ma tu che macchina c'hai adesso? Sempre la 147. Ah, sì, me l'ha detto. Naturalmente che andava a vedere su fuori strada. Belligetto, no? Non lo prendi più. Non ce l'ho più quello, te l'ho venduto. No, un altro, non te lo riprendi più, non ti è stato più un pallino. E adesso vediamo, Antu, vediamo. Come vanno le cose qua, è un casino, Costano. Detto 47 un po' già cammino. Già viaggia. Già viaggia, una porca miseria. Ce l'avevi anche lì il baracchino, mi sembra, no? Sì, sì, c'era anche lì. Infatti quello che lì ce l'ho qui a casa parcheggiato. Era bello. Che però stavo più usando. Capito. Tra una cosa e l'altra, poi si è bloccato tutto e era sempre lì fermo. Ma ho notato che la sera sembra dopo cadere, anche la mattina. Qualche volta siamo in vanto, succede dicendo qualche volta no. A tutti noi. E a periodi, magari la gente ha da fare o cosa e non entra, capito? Io ieri ci avevo acceso e poi non sono entrato, tra una cosa e l'altra. Non sono entrato, ma adesso per far scaldare le radio, capito? Se no poi si sì, rinchiodano, già mi quella 87 me la va, ma poi come l'aveva pulito un buio e si è ripreso e si è bloccato del tutto, e poi di stare fermo e cosa si stava, si è inchiodato e adesso già sembra a posto. Sembra, anzi lo è a posto, e già sta girando, dai. Ma poi c'è un cliente. Cava. Potenziometro mezzo mezzo che mi sta rubando le scatole, bisogna che lo compri e glielo sfrutti a ver se migliora. Ci vorrebbe anche quella bomboletta d'aria, amianto, prima di mettergli quello spray, così si pulisce bene e poi li metti lì. Però sto per contatti e si riprende alla grande. Io ho il coso, ho il compressore, magari dare una buffata a un visto. Già che me la porti in qualche maniera, gli do una buffata e poi li passo a quello lì, li passo quello spray per contatti, quello secco, però perché quello cosa non va bene. Cava. Sì, perché sennò qui è un casino, inizia a gracchiare, non funziona più e vanno in KO tecnico. Lo so, è quello perché l'ho tenuta un bel po' di tempo ferma, non lo sta facendo, ma preso da un altro mio amico, che io da tanti anni non ha mai gestito una cosa del genere. Questo è l'avevo pigliato a seconda mano un po' di tempo fa e mi danno questo problema. A gracchia? Gracchia non mi fa andare cosa, non mi fa andare l'audio, capito? Devo mettere una certa posizione per funzionare. Così ha rotto la riscatto, Anto. Io l'altro giorno stavo parlando con l'87, a un certo punto, si andava tutto a conto suo. E mi stava anche mandando in protezione l'amplificatore. Tu aveva problemi con l'alfa ieri. E cosa ti faceva? Quello ci va proprio importante, quello lì addirittura gli hanno dovuto cambiare, non so che cosa. Gli avevo detto una persona di farlo vedere, solo che tu si ne ha fatti sempre le balle. Lasciamo perdere, va. Stava accusando a me, allora non gli ho detto più niente. Perché bisogna stare appresso a queste radio, capite? Sono peggio di una macchina, se lasci spente si rovinano. Più di usarle. E va bene. E le facciamo andare. Che vagava e cavagava. Questa non ha voglia più di salire io. Ma poi accusando a me che l'aveva bruciato, che era stazionaria che l'ho bruciato. Ma fa girarmi le palle, cioè, era tutto quanto un altro problema, era. E poi ero sovrato a accusarmi. Beh, la colpa sempre di qualcuno deve essere, anche quando succedono. Secondo te, se avevo avuto stazionario, io l'avrei usato quell'apparecchio. E certo che no, ma poi si è bruciato anche il tuo, a prescindere, no? Sì, invece era fuori da parato, tutto un blocco, una persona, quello lì, non gli è andato fuori, l'ha fatto vedere da una persona che ce ne intende, ed era un proprio circuito che non andava più. Cioè, cosa entrava io? Cioè, ma io non so come fa scemo, io me ne accorgo, cioè, le cose non vanno bene. Cioè, e si grida che lo matto. Già se ne accorge uno. Va bene. Adesso non ce l'hai più quella radio, l'hai data, no, Anto? Il mister è tutto in blocco, ha dato. Non si è tenuto nulla. Negativo. Vuoi fine le trasmissioni? Ehi, vabbè. Non sai comprare, però no. Non le vuoi più sapere qui. No, non le vuoi più sapere, no. Magari qualcosa di passeggero, Poi già si riprende e verrà di nuovo la voglia, vedrai. Cosa è successo a me? Daniele, è meglio la KPG, va. Cava. Mi ero vedi, adesso sto salendo, Meglio adesso la radio, Antu. Se no, è buona la radio, è buona. Il gatto, ma bisogna fare l'uvo, qua c'è apparecchio. ci mette un pochino a raggiungere i fatti suoi, capito? Quando lei fosse per raggiungere una certa temperatura l'esercizio, poi se ce l'avete fatto impostati lì ce ne sta, capito? Allora vedi. Ora, adesso già è lui. No, il mio sai cosa fa? Il mio parte con i vasi alti e poi ci abbassa, ci stabilizza. Io non lo uso quasi mai, cioè non è schiaccia portante quando è così lui. Lo faccio stabilizzare un po', poi dopo lo uso. E sono un po' particolare in radio, mamma mia. L'altro giorno mi hanno portato, mi è mancato il potenza, mia madre. Il cacchio. Questo non ce n'è, Milan, tu. Ma saranno rognose perché devono scaldare tutto, però sono micidiali, sono. Già lo so che sono buona. Cava, a me non entra nessuno stasera, io... Tutti morti, sono. Devo vedere come arrivavo in lontananza di nuovo. Se riuscivo a sentirli meglio. Non so, ma qua già arrivi forte. Cava. Perché qua c'è 9.20, l'altra vede c'è 9.25. E nel superstar non ho controllato perché ce l'ho staccato. Io sento qualcuno sotto, però non so chi sia. Sei italiano, cosa è? Sento voci. Sì, io non lo sento. Cacchio, ma deve essere un fosso quel posto, Mian, tu. No, c'è che QRM alto, ci ho capito. E lì sicuramente c'è qualcosa che ti disturba a te. C'è qualcosa che ti fa salire il QRM. Sì, tutti quei sistemi strani, ricordo. Di telecamere, cosa? Quanti si dice? Inverter, chi si va a dare un QRM? E poi un po' di spuria, ma la maledizione. Chi c'è mamma terra, troppi credi, no? No, chissà, chi si fa delle cose strane, parla di Trento. Porta la tua radio, mamma terra, lo sai come si riprende al volo? Secondo me non si che cosa di strano anche per Trento. Ah, boh. Chi è che vuole entrare? Avanti! Boh, sento uno basso, non so chi sia, sento solamente il bip. Sono pure che è lontano. Ah, lascia perdere, è straniero questo. Magari è strano quando chi sente. Sì, perché adesso è aumentato il radio, è aumentato di botto. Però è straniero, questo non si comprende una mazza. Sì, se già mi arriva, se arriva bene bene bene già mi arriva, non preoccupare. Ah, quello è poco ma sicuro. No, perché c'era qualcuno di fuori, ok, avrei messo il più amplificatore, capito? Si è attaccato all'altra radio. L'avrei sentito meglio. Ma già stai sta così, sono mi disturba e basta. Ma lo so, ma è basta quest'anno, si intende nessuno. Sì, vabbè, ancora un bel tempo, deve ancora iniziare, Mian, tu. Magari tra qualche settimana, già, vedi come ci divertiamo. A fa collegamenti. Radio Baccano facciamo. Cara. Facciamo. Non lo posso portare qua, se no mi picchia qualcuno. Però abbiamo meno divertito. Lo lascio a casa. Quello lì. No, mia madre li venga. E chi non vuole? No, l'ha ammazzo, sì. Quella valvole. Ah! E così ti fuggiva Daniele. No, ragazzi, no, lascia di perdere quelli, mia madre li venga. Quello giusto a casa, accenderlo una mezz'ora, così. Adesso non si sa da quanti giorni sono senza accenderlo nemmeno. Così Potremmo trasmettere con quello più scalda, più pompa. Cazzo, ma lui c'è un bombo davvero me. Già lo so, Antu. Aspetta un secondo. Ok. Bene, Nera. Già va bene. Se attende le cose, dei ruti, della croce blu, degli ambulanti, esattamente, si muove visto. Ma illuminali di giorno, so che la prolunga da lui. Ah, voi illumini, non ci ho pensato, mi fate prestare la luce da loro. Quindi prestami, devo attaccare la prolunga, devo fare roba, non ci arriva. Lasci 24 ore attaccato, le ho lasci. A voi, cazzo! Dai, disperato. Adesso. Più la luce, boh. Che è fatto il ragazzo? Esatto, ponemo uno più umano se ne ponemo. Anche uno da chilo fatto va bene, via tu. Allora sì che ci attende lampeggiante a vero in occhio. E tutto via Milano, cazzo. E via Verona è illuminata a giorno. Io dico che quella gru la spegni, cazzo, di quelle che c'ha. Ah, sto scherzando, ma lo sai cos'è. Oi. Oppure ti fai prestare due finte all'ambulanza, amico. La fai accendere, la metti all'inverter e ti colleghi, così si scioglie tutto. Dobbiamo stabilizzare quelli lì, perché sono un po' potenti un bel. E tirare corrente un bel, chissà roba, no. Lascia perdere. Una mezz'oretta così lo uso, ma adesso non si sa da quando adesso sta accenderne, ma quando accendi quello già lo sai che comincia già a fare lo smitter. Già lo so, anche già ce l'ho avuto anch'io anni fa per volare, ma era grandissimo, era con due valvole, due o tre, non ce lo ricordo, però già fungeva. Allora quello che ho io è modificato, c'è la valvola americana, ma spinge forte. Un giorno l'ho misurato così, mi stavo dando intorno a 2,30, 2,40, una cosa del genere. Già va bene. Cosa vuoi di più? No, è troppo, troppo corrente tira, chissà. Se non sarà mi cuda davvero. No. Poi quando più scalda più pompa, più scalda più pompa. E a voi lo uso meno possibile perché anche voi siete senza le palle. Io lo sai che cosa fa di niente a palle. Eia. Già lo so, che sta facendo così adesso, se prima era zitto. Aspetta, ora. Pensando sulla cuccia, se c'è una che sta facendo le coccole e lui prende e muove la zampa e sta pensando. Monellone. Uia. Ah, a proposito, tanto cercami su Faccia di Libro che l'ho dovuto rifare a nuovo, che non riesco più a dare amicizia a nessuno. Stavo cercando. Stavo l'amicizia, adesso devo passare tutto il tempo per continuare a dare l'amicizia. C'è un cliente. Un cliente, ciò. Un attimino. Gaffa. Ho capito cosa mi stavo dicendo dell'amicizia. Oh, Daniele. Sono arrivato sia a un certo numero di le richieste che ho inviato, adesso sono da ieri che non riesco più a chiederle. Hai capito? Mi ha bloccato, boh. Se gli altri me la chiedono la posso accettare, ma inviarle no. Ma perché gli hai fatto troppe? Sicuramente, ma come si dice? Sono arrivato forse una ventina di persone, adesso me l'hanno accettata, capito? Oh. E come mai sta facendo così? Ma cosa adesso, anche l'altro me l'hanno bloccato con una cazzata e non sono più riuscito a riattivarlo, capito? Mi hanno bannato. Però me lo rifatto a nuovo. Guarda che c'è scritto me quanto è la banazione, forse c'è già libero. No, guarda anche poco fa e niente. 30 giorni è sempre in fase di accertamento, da cavolo che fanno dicendo. E se risulta non ai formati loro mi viene tolto del tutto, me lo chiudo. Cazzo, cosa hai scritto? Ma cosa è ciò quanto ci ho mandato a fanculo a una e mi hanno bloccato. Ma pure io ho scritto cose, ma mi hanno mandato 10 giorni, mi hanno dato 5 giorni. Cioè non è che ho fatto chissà che cosa. Dove ti dica tu? C'è scritto 3 giorni, ma sono passati da 19, oggi non sono 3 giorni, no? Allora devi scrivere il perché questo. Non riesco più a farlo. Si apre nella bossa manto, pazienza. Adesso piano piano lo richiedo l'amicizia, poi se mi trovano me la chiedono, le l'accetto. Capito, mi cercano e le l'accetto. Aspetta, vediamo un po'. Che era? Cazzo, cioè ti hanno proprio bannato male. E allora, qua per carità, dove ti dico, pazienza, ormai l'ho rifatto e ciccia. Oh. Cos'è il cane? No. Ehi, ha un cane nero c'è, Antu, il mio è. No, non è un cane nero questo, c'è un cavallo. Come mai non ti trovo? Come non mi trovi più? Non lo so. Guarda che c'è un cane nero in foto, mi segue accucciato in terra. Non so, guarda. Aspetta che prendo il telefono che ce l'ho già, aspetta un secondo. Sì. Tanto. Ora. Tanto. Aspetta, come sei tu, Dini? Ah, capito. chiara. Che casino. Poi ho provato anche a mandare poi amicizia e vai blocca. Ora l'ho fatto. Mi confermato a te lo van tu. Scappa. Aspetta un attimo che è entrata una persona. Ci sentiamo tra un po'. Ehi, a dopo Antu. Pompo. Ebbè Daniele. Ebbè Pompo. Qua siamo, a scaldare i motori. Fai bene, scalda. E tu, Io vengo. Che so qua. E basta. Qua ci sono tutto adesso. Cava. Io qua ho acceso tutto lo stesso, fa riscaldare un po', sto facendo le chiacchiere con Bombolino, adesso ha chiuso e niente, chiava. Hai visto, così bisogna fare, che e allora dove va, e ci riposiamo. Cate. Voglio che pedisci voi cose. Che me dove va col cane oggi? Ieri c'era uno. Oggi è silenzio totale. E va bene. Hanno più voglia di farsi due chiacchiere. Sì, è pieno di gente. Sono un canale 6. E sono due tipi che parlano. Non ho capito se sono vigilanti notturni o la cavolo sia. Ho chiamato Fabio, quello che abita qua vicino. Che fa la baracchina. E mi ha risposto quest'altro. Dimmi. Perché tu hai detto Fabio? Quello che sto cercando io, sì. No. Allora ho detto, non sei Fabio che sto cercando io. C'era un altro amico suo, c'è. E parlava. E parlava tranquillo e parlate. E dove si chiamarmi già gli rispondo. Va bene. Sempre bene che ti sta arrivando, Antonio, dalle tue parti, sì. Sì, sempre bene, sempre amarettore. Meglio così. Aspetta. Ecco fatto. Cava. Va bene. Quel baracchino non ha dato più problemi sulla trasmissione di ricezione. Negativo, Antonio, va benissimo. Io lo sto usando anche poco fa, sto parlando anche con quello, con Antonio. Poi voleva un controllo e allora ho commutato su questo, poi capito. Infatti va bene. Ricordati sempre quando ti rifermo, un po' di cirici distrutti appena e vale la bellezza con la parecchia. Succede anche a me con il premio del 9. A volte fa funziona, a volte è per i fatti suoi. Già la accendo ogni tanto. Cava, a me interessa più questo, cavolo, che sia sempre in forma, quelli pazienza, ma adesso li sto accendendo più spesso, dai. Tu dici solo che metti un antennino, come si chiama, la terrazzina agganciato, così ti colleghi due apparecchi, due antenne, non è che ci vogliamo molto. Già c'ho il commutatore, quindi il commuto è... e vado con l'altro, capito? Uno l'abbasso e lo faccio andare, capito? E se non basta mettere due antenne, senza commutare nulla, accendi l'apparecchio e direi che vai di cuffiette, così quando parli ti ascolti anche gli altri cockpit, per non avere sempre che lo c'è QRM, altro, eccetera, eccetera. Io facevo così, vabbè, io là sono alto qua, con tre cala per il cavo, sapete avete l'antenna, io ho bisogno, so che basta con la pera, basta avanza. C'è un altro boomer anche qui, e quello è la piazza, ma non voglio arrancare il buco che ho fatto, ma io cazzo, se no se mi faccio un buco largo, io no che mi entra l'aria, cazzo, quanto a fallo ci vuole un casino, tipo ci vuole. quello è. Anche io qua ho fatto buchi contro buchi e ho dato un colabrone diventato. Va bene, va bene. Anche se ma avevo fatto 4 buchi. 4 cavi LGD, 213, 4 buchi. Poi quando c'è Giampiero, quello li ho tappati con lo stucco col cemento, il cazzo. Se non te la rabbia entrava. Quello è una sorte. E poi c'ha gli spifferi a tutto punto. Vabbè, basta sigillarlo, lascia il capo e già si risolve il problema. Ah, il mio già passa sotto il coso un capo. L'ho fatto passare bucato. Risulta sotto la. Prima della finestrina, capito? Quindi c'è quella fare in metallo che rimane molto morbido, ho preso e gliel'ho inclinato a mano, così l'aria non entra, non entra manco l'acqua, quando piove acqua non entra, se no io mi si lagava magari a casa, non saranno. No, io cioè per trovare lo stesso con la calata del capo che l'ho fatto giusto, no? Ho fatto passare, sono scenario, poi ho fatto passare nel soffitto, nel bordo del muro e potevo entrare dentro la casa. Un'altra cosa è, come pioveva, come faceva la goccia, l'acqua scendeva e stava dentro, tutto dentro dal, sotto la porta dentro l'andit. Faceva un casino, adesso l'ho fatto un po' più lungo, era un colà più come prima. Perché l'acqua se quel capo già lo stai, quindi dovresti fare la specie di cosa penzoloni, una specie di mezzo giro dovresti fare esterno in modo che la goccia scende fuori e non entra dentro. E infatti l'ho fatto così alla fine, capito? E ho risolto, cioè era un casino qua. Anche che questo è il 213, non è che sia anche così semplice da modellarlo e sistemarlo, è rigido. Maria. Mi illumini. Ciao a tu. Ti ha consegnato la bomba, sì. Sì. Tu vabbè, te l'ho preso segnale sia con Pugno che Antonio. Stesso segnale abbiamo. E tu sei più vicino al tuo però, per fatto a me sei molto più vicino. Se sono in via di quel palo gli altri 4-5 metri, vedrai che mi superi pure a me. E non ce n'è molto alto quel palo. Se avessi pigliato un palo telescopico con quelli di da 8 metri, a voglia. Ma in effetti sono vicino più forte di te, sto arrivando, perché vabbè sono anche più vicino, però tu io sono qua che sono in basso. Bianco un secondo. Tu sei in alto, capito? Sono due cose diverse. E io già lo so, già lo so. E adesso sono andato di guai. Se metti la parte quanto verrà? 25 euro, 20 euro da bricco, dovrebbe fare l'auto, avrei messo uno in quelli con la lingua, intanto già leggera, e se sei arrivato alla tettoia del supermercato che c'è dello spin come altezza. Cioè, quindi per essere dove sono, facendo un bel forte, al monte arrivo quasi a 20. Che Già lo so, però tutto sto dicendo, una bella zona quella. Se fosse stato un po' più in alto, la rivendita della bomba la posso avere di lì, avresti avuto in Bellizzetto, dove abitavo io, avresti fatto la calata dal tetto da lì, direttamente sotto. Non so come sei arrivato, avresti accompagnato il tuo collega fino a cosa, a Cagliari, a consegnargli la bombola. Già va bene questa cosa, sono nascere in un palazzo e molto, sto facendo miracoli. Già lo so, io questo 80, quando avevo iniziato l'ho usato in garage, ho preso la calata, l'ho fatto scendere così, a pendolone. Tranquillamente sentivo l'acido, ma senza corrermene nulla. Santiago Segare arrivava lì via di Zidio, io arrivavo a Santiago Segare stesso, con 50 watt. E c'avevo la Gran Premi, non c'avevo altre antenne, la Gran Premi c'avevo piazzata. E questo è più grande della Gran Premi. La Ringo l'ho piazzata anch'io, ma io il modello vecchio parlo io, sopra via di Zidio. Ho messo la Ringo da una parte, la Gran Premi dall'altra, al centro del tetto. In radiale, figurati, rimanevano 20 cm da toccare a terra. Comunque esce bene questa qui quando è a posto, perché sono un po' fabbricate male, cavolo, però quando è a posto come? Non so, c'è quella cagata del coso, perché quella cagata vera che c'è, dove c'è arrecciato lo stilo, che rimane schiumosa. Capito? Quando piove, se ammorbidisce lo stilo tende a scendere, quindi bisognerebbe farlo diventare rigido in qualche modo, mi capito? Poi metterci silicone, in modo che non entri acqua e rimane a posto. No, la pecca che c'ha che entra in dieva e non vedi. Però adesso già gli faccio un trattamento. Se no, no, non se ne scende questo, perché è stata già modificata, capito? Quindi non è a problemi. Ah, allora già va bene, se non se ne scende, la voglia. Ho pure ubriato pure a lei, perché dico porca miseria, capo. Ma è così, l'antenna è fatta, la Ringo è fatta così, non puoi fare niente. Un'antenna mi è fatta tanto per usarla così. E boh, Daniele si è assentato. E sono sicuro che se ne metti 4 radiali a quell'antenna lì sotto la bobina, esce ancora meglio. Come antenna, come prestazioni ne è della bassa, c'ho quella casa che c'ho fatto anche, ho parlato anche fuori, ma arrivava fortissimo però. Come prestazioni ne dà, però boh, c'aveva questo difetto, c'era. Ma adesso piano piano penso di la isola bene, la isola vediamo se entra più acqua. Io va bene, almeno vedi un po' come esce. Vediamo un po', perché quando entra acqua comincia a sedere stazionari e comincia a non sentire nessuno. Mi dà problemi, mi capisco. Non li sento tanto bene. Che c'è adesso è perfetta. Io lo so, già fa così, l'ho avuta anch'io la Ringo. Infatti l'avevo regalata immediatamente, l'ho regalata a un amico di Usido. C'era lui lì a casa sua, e avevo regalato per anch'io anche l'antenna. E la B27L invece avevo regalata la sua all'alberghiero, a Mario Manca. Poi mi sembra che ha conservato tutto il che aveva fatto, non lo so. E avevo regalato il baracchino anche l'antenna, e il capo. Non l'ha mai piazzato? No, non l'ha mai piazzato, e c'era la moglie che rompeva le balle, c'era. L'ha preso, l'ha giunto, la scoppia di venire con tutti e due, l'ha giunto. Comunque il cavo, l'antenna, l'emettatore ce l'ho regalato io, quindi c'è la stazione completa. Sì, a bene no, che mi ha dato, perché ce l'avevamo la visto. No, non l'ho mai sentito la verità. perché ce la mette lì al bar, no? Dove la mobilità ci ha pensato una volta, poi ci usciva bene, cazzo ci usciva bene. Gli avevo fatto i 3.900, gli avevo prestato, ho detto usa questo, ho detto provvisoriamente, ho detto così vedi come esci. Poi mi ha detto cercami uno, eccetera, eccetera, soldi non ne ho, allora mi è capitato un ultimo che mi avevano regalato, gli ho dato un ultimo dei 200 canali, gli ho regalato quello, si vede l'alimentatore, l'abbiamo 27 e cavolo, cosa vuoi di più? Sempre venendo in miseria, il cazzo d'errore di Nadia a vedà. Già lo so, aspetta, Ehi, dai, io devo uscire, devo uscire, Sì, ecco, cazzo. 0982, che questi sono quelli che vendono la roba all'Amazon. Gli altri sono per in culo. No, stavo rompendo le palle, stanno. Stavo leggendo, qui c'è sempre più niente di miseria. Però già abitare di là, cosa non va di là? Sì, c'è, già so chi lo c'è tutto quello che ci hai tirato, 100.000 euro, per il figlio, cioè, e più il resto, perché sono pagati lui, la moglie e l'altra moglie, per quel figlio lì. Perché lui c'ha altri due figli, c'ha, capito, con l'altra moglie. Era brava persona, però cavolo, sempre venendo in miseria. Adesso infatti voleva i cose che me mi sono fisicciato, gli ho detto no, ho detto quella poi che sono meglio a pagarti io, gli ho detto se tu vuoi te li compri, gli ho detto. Se aveva già messo in testa di tenersi di lui e io comprarmi le robe, ah, io ho detto non credo proprio, questi sono i miei, me li porto via, se vuole a me, li ho comprati per fare impianti d'antenna, no, per andare a rompere mille balle. Quasi me li ho ritirati, poi se lui si era comprati, era comprati, se non si era comprati, era via in culo, infatti non ne parlavo più, da lui della moglie. Poi un giorno è venuto qui al bar che c'è alla Cunetti, mi ha salutato, mi ha detto scusami per l'altra volta, ha detto scusa accettate, però ha detto mettitelo bene in testa, ha detto non ce n'è più, ha detto roba gratis per nessuno, e ho dato anche troppo io, ho detto. E cosa l'ha avuto? Ho detto niente, quindi chiuse le biglietti, ho detto se uno vuole una cosa se la compra. Sì, abitare di là, però fa un pezzo in busciacca la va. E appunto per quello già non... Infatti sono più salito su io, da lui. Quando devo andare a me, vado di qua da Cuneti, se no vado da Soria, capito? E mi bevo una cosa, insieme a Simona, lei si piglia il caffè e io mi piglio un abito come del salvo. Cucino, quando rientro metto a posto tutto quanto la casa, eccetera, eccetera, e buh. Poi se voglio, posso prendere anche la roba senza pagare, non ho nessun problema. E poi tanto io lo sai, il giorno giusto vado, pago quello che c'è da pagare, non succede nulla. Per una birra non muore nessuno, basta che tagli i soldi di domani oppure di dopo lavare, tanto per dire. Ma il problema è Giccio, il problema è che sempre così è. Pure no, una volta niente di miseria, mamma mia. Lo so, già ce li hai i soldi, non ti preoccupare. C'è anche la casa popolare, usavo di più. Cazzo, se mi hanno mandato per la casa popolare, un cazzo te la danno. Lui gli ha dato subito, devo dire subito, neanche un mese l'ha passato. E gli ha dato subito la casa, ha fatto la domanda. C'hanno due tensioni e lui gli ha detto bene. E più il circolo per svolarsi. Non ha bisogno di lavorare. Non so che non ha bisogno di lavorare, il circolo ce l'ha per svago, non ce l'ha per altro, perché sennò è muscio, in teoria. Cosa farà? Se ne va a veloce a stare dentro a casa, guarda, si provvisa gli arrivi. Quello che c'è adesso mi. Tutti i giorni sempre la stessa mondezza. Prima il Covid, adesso cazzo l'Ucraina. Cazzo solo guardare, guarda, filmate ti viene da piangere, ti viene, cazzo, ti prende cazzo lo stomaco, ti prende questa storia. perché nessuno fa niente, non puoi fare nulla perché tutti temono, hai capito? E quello fa quello che vuole. Io faccio bianco che devo fare roba. Ce la risentiamo dopo, dai. Avanti da me se si ascolto. Ma io chiudo un attimino. Cioè, se magari ce la sentiamo più tardi, ok? Ehi, va bene. Ok, adesso ascolto, là, ci stiamo più tardi. Cioè, sta andando tutto bene. Bene, bene, tutto a posto. Come mai te l'hai rimontato l'apparecchio? Che è successo? Allora, mi sento un po' strano qua. Comunque, vabbè, adesso spengo la ricezione. Prova, 1, 2, 3. C'era la lampadina spenta dello smitter e mi ha fatto dannare l'anima perché è roba piccola, io non ho le mani ferme, la vista non è buona e quindi ho tirato giù tutto il creato, capito? Il principale, la Madonna, il figlio e anche tutti i santi. Spero di uscire bene almeno, normale. Perfettamente bene. Però mai più, lampadine mai più. La prossima volta appena si brucia il LED con la resistenza, il LED bianco. È troppo piccolo, cioè, hai visto i contattini della lampadina quanto sono piccoli, quanto sono sottili? Io non li vedevo. Poi a mano libera così venivano ben male. Per carità di Dio, guarda. Smontare il tuo apparecchio per una lampadina, per carità. Va bien, aspetta, hola, quattro dita dal mic e così attaccato al mic, va bene, questo è un po' meno, $3.900, un po' meno omologato. Di segnale dalle tre parti. Oh, qualcosa tipo 9.15, almeno credo. Cos'è la bazooka? No, non è bazooka, no. Ah, ma tu sei in sede. Ehi, a tu. Il segnale credo che sia. Adesso questo apparecchio era fermo un anno. Da quando si era rifulminata la lampadina, l'ho sbattuto, tra virgolette, sbattuto al muro, l'ho messo via, era un anno che non veniva acceso. Adesso gli do una bella scaldata, lo lascio acceso oggi, domani, e vediamo se è entrato in frequenza anche. K, va bene, adesso devo pure cucinare, in ora buona, mezza serata per una lampadina. Dovevano fare un sistema più pratico. Boh. Ma non si bruciava più. Sai cos'è? Era per non andare da Fusaro perché parcheggiare avevo parcheggiato, la moto era chiusa in garage. La lampadina l'avevo trovata, l'ultima rimasta,